che cosa abbiamo a cena, amore? Che vento ci sorprenderà? Che ipotesi di cambiamento segnerà la croce del nostro dolore? In fondo sono solo un uomo perduto nell'oscurità. Continuo a chiedere perdono e poi chissà da quale Cristo arriverà. Fine dell'estate della nostra vita, sembrano rimaste solo sigarette spente e un gigantesco niente. Notti sconsacrate senza via d'uscita, pure illuminate da una scritta al neon gigante. Io ti amerò per sempre. Chi ha vinto le lezioni, amore? Che vuoto ci governerà? Che antico testamento adesso fermerà la sistole nel nostro cuore? In fondo sono una ragazza nel crollo della civiltà. Continuo a interrogare il cielo e poi chissà mio figlio quale nome avrà. Fine dell'estate della nostra vita, sembrano rimaste solo sigarette spente e un colossale. Sconvolgente dell'autunno, era diffuso su di noi. Nessuna morte ci potrà ferire mai, nessuna morte tu lo sai. Perché se anche questo fosse il capolino, riusciamo ancora a credere.